24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Chi dice che era spompato fuori onda? Venite fuori che faccio le flessioni. Avete sentito lo spompo? Avete sentito lo spompo? Venite fuori che faccio le flessioni e vi faccio vedere se sono lo spompo, come mi ha definito Matteo Renzi. Non fuori, sì, non ce la conto fino al 3. Milan, sei proprio un coglione. Sì, come cazzo fai a lavorare lì? Ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Va bene, abbiamo abbastanza capito. Allora, lo spompo, lo avete sentito? Matteo Renzi ha detto che era spompo. E lui, venite fuori che vi faccio un po' di flessioni, Rambo Bersani. Benvenuti, questo è 24 mattino, 349-238-6666 se volete, per i vostri messaggi. E il nostro Parlamento può aprire, ebbene sì, anche oggi. Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minniti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori. Trottere col caffè della Minniti. Noi non lo vogliamo dalla Minniti. Brutto cretino di un Milan. Grazie. Allora saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia, la nostra Miriam Lucchetti in redazione. E sono felice, strafelice, super contento di poter ricostituire una sorta di coppia di fatto nel mercoledì, intanto con Paola Saluzzi. Buongiorno. Ma buongiorno, meravigliosi, buongiorno e bentrovati. Eccoci. Le flessioni no, però, le flessioni no. Dello spompo. No, quest'ora di prima mattina, hai visto che ha fatto subito vedere, vi faccio vedere io, altro che spompo. Dov'è il meraviglioso? Dove si trova? Stai parlando di me? La meravigliosa coppia si ricostituisce con... Stai parlando di me? No. Ma certo, ma questo è il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno, direttore. Buongiorno, eccoci qua. Ho detto, buongiorno, direttore. Ho detto il meraviglioso. Il meraviglioso, ho detto, pensa a me, Luca, invece no. Meravigliosamente spompo. anche, ma allora? Anche Luca Dini. Vabbè. Dove sei, direttore? Sei a Venezia ancora? No, sono a Milano. Perfetto. Ci eravamo lasciati, ho detto, vabbè, vado a Venezia a vedere questa carrellata. Invece no. No, come Cenerentola, diciamo. Perfetto. Mezzanotte. Subito a casa. Allora, ma avete... devo farvi subito un giochino, perché questo è il gioco della politica che c'è adesso. La vera rovina sono queste feste di partito. A settembre c'è questo profluvio di dichiarazioni, cose di cui non interessa a 60 milioni di italiani, non frega niente di queste robe. Però insomma le feste di partito si dichiarano. Allora, voi fate sport? Luca, tu fai sport? Lo sport di settembre, sai qual è? La nuova moda, no? No. Paola, tu non sai qual è lo sport di... Io faccio parzialmente sport, come lo yogurt, dipende, sono molto pigra. La nuova moda, dovresti anche su Vanity Fair fare un servizio subito, dietro, e salire sul carro del vincitore, il nuovo hop. Certo. Allora dobbiamo fare questo gioco, voi sapete che Renzi o Bersani, allora il bandana o lo spompo, ecco, dovete decidere se stare col bandana o lo spompo, anzi dovete dirmi, per esempio, Saluzzi, questa è facile, Franceschini, con chi sta Franceschini? Col bandana. Ne parlammo ieri a Skype, ti sei fatto pomeriggio tutto il tempo. Era abbastanza facile. Si bandana. Luca Dini, Bersani, con chi sta? Con lo spompo. No, sta con... Non si sa, non ha ancora deciso, forse starà con Cuperlo. Poi c'è Marini, secondo te, Saluzzi, te lo ricordi Marini che doveva diventare Presidente della Repubblica? Secondo te con chi sta? Oggi lo dice a Repubblica. Con chi sta Marini? Non lo so, ma sta tanto arrabbiato. Sta arrabbiato col bandana, quindi non voterò mai Renzi. Sta tanto arrabbiato. Ma io dico, ma chi se ne frega? No, meno male che si era detto di non creare le correnti, perché qui secondo me di corrente in corrente si finisce per finire con un mal di gola e con un mal di schiena che, insomma, ce lo ricorderemo. Sì, ma soprattutto, Luca Dini, ma cosa frega gli italiani chi sta con chi all'interno del Partito Democratico o no? Assolutamente. Eppure, eppure questo, a questo siamo arrivati. Insomma, la politica... Aggiungerei un premio, la politica costa, la, oltre alla carta politica, costa, la che ormai è costa. Un fatto fondamentale per tutti noi. Quando, con la tua rassegna stampa la politica costa, magari sarebbe bene insomma stare con gli italiani, che è molto da bar porto come affermazione, però sarebbe bene stare un po' con la gente, no? Allora, ci siamo lasciati prima dell'estate. Che cos'è la politica italiana, giusto se ne vogliamo parlare? Renzi da una parte, Renzi e lo spompo, e dall'altra parte Silvio Berlusconi, telenovela, puntata numero 5483. Oggi i giornali lo danno e lo dipingono come Falco. Falco, Repubblica titola per esempio, stacchiamo la spina. Ecco, anche su questo vi devo chiedere un commento, lo devo chiedere tutti i giorni agli ospiti. Luca Dini, che ne pensi dell'affare, della vicenda Berlusconi? Come finirà? Ero rimasto ieri che i figli l'avevano convinto a chiedere la clemenza, quindi diciamo che vorrei aspettare vorrei sentirlo parlare prima, vorrei vedere che cosa fa, perché anche lì tutti i giorni ci dicono una cosa diversa. Francamente sono un po' stanco di retroscena su Berlusconi e molto onestamente anche lì ho la sensazione che agli italiani freghi poco. La grande maggioranza di italiani freghi molto poco. Sì, sui giornali devo dire che anche basta. Oggi basta, paginate. Tra l'altro appunto Berlusconi quando parla dice una cosa, dopo 24 ore no, è successo, ha detto no, ma non ho mai detto questa cosa. Ma non vale più nemmeno sentire quello che dice, che faccia qualcosa. Sono pochissime dichiarazioni. Comunque il 9 settembre è dietro l'angolo e fino al 9 settembre Paola Saluzzi ci ha regalato un'estate in cui io ero basito, cioè d'estate c'è una Ferragosto leggeva 10 pagine di retroscena su cosa succederà il 9 settembre. Sì, da una parte è la data attesa, sì. Dall'altra ogni giorno è una sorta di conto alla rovescia che è indipendente poi dalla volontà dei singoli attori, cioè se ne parla, se ne deve parlare da un lato e dall'altra se ne parla purché non se ne sparli. Aspettiamo il 9 settembre, ma non per essere sempre al centro come l'angolo della bilancia, però se una cosa deve accadere in quel giorno, poi peraltro non sarà il giorno in cui accadrà tutto, non è il D-Day, è l'inizio di un fatto sicuramente importante per Berlusconi e per il nostro paese, ma bisogna aspettare il 9 settembre. Mi rendo conto che da lì al 9 se ne debba parlare, però insomma dando il giusto spazio, ecco. Ci sono poi tante altre cose delle quali dobbiamo parlare, compresa la nostra politica, compresa l'economia, compreso l'IMU e dove andare a cercare i soldi, insomma. Sì, ma peraltro oggi vi regalo solo questa perla: il presidente della giunta del Senato, che dovrà decidere, Stefano, viene intervistato dal Fatto Quotidiano e dice a una domanda precisa: che succederà il 9 settembre? Ah, gli scenari da quella riunione sono infiniti. Si comincia bene, insomma. Uno dice: ma come? Abbiamo aspettato il 9 settembre per la verità disvelata del decimo segreto di Fatima, non lo so, e invece il 9 settembre che succederà? Scenari infiniti si apriranno da quella possibile, da quella riunione. E vabbè, questo è un po' quello che è il menù della politica italiana. Io vi voglio subito portare, giusto per cambiare un po' pagina, beh no, prima sentiamo la questione della bandana, no? Perché Renzi è stato ormai definito il bandana, adesso sentiamo Bersani come l'ha commentata. No, insomma la bandana alla fine sarebbe meglio a me che a lui, può permettersi anche di non portarla, accidenti, io no, almeno quello. Vabbè, insomma, la pelata effettivamente ce l'ha più Bersani. Allora, io vi voglio... Certo che immaginarli tutti da pirati dei Caraibi, però insomma... Sì, ma... sì, esatto. Vabbè, esatto. Dateci Jack Sparrow e non ne parliamo più. Bene, andiamo avanti. Sì, il physique du role effettivamente, Luca Dini è un po' diverso. È un'altra cosa. È un'altra roba. Vabbè, io vi voglio far parlare di una cosa molto, molto seria, che incombe, di questo forse i giornali si dovrebbero occupare, per la verità se ne occupano anche abbastanza, cioè la questione della Siria. Allora, ieri avevamo qui Edward Luttwak che, caro Luca Dini, caro Paola Saluzzi, ha detto: secondo me Obama in realtà non vuole fare questa guerra e spera che il congresso americano gli dica di no. Sembra come quei gradassi che al bar dicono: tenetemi, tenetemi, se no lo picchio. Luca, tu che conosci anche, segui sempre con attenzione quello che succede in America, secondo te questa guerra, lo so che è difficile capire quello che sarà, ma davvero gli americani, davvero l'America è pronta, magari con l'aiuto della Francia, a buttarsi in questa avventura che si sa come inizia e non si sa come finisce? Io la penso come Luttwak. Credo che Obama non possa perdere la faccia e quindi sappia che deve fare qualcosa, ma preferirebbe in realtà non intervenire, perché insomma è fresca la memoria di quello che è successo in Iraq, di quello che è successo con Colin Powell. Insomma, secondo me al di là dei proclami non c'è molta convinzione su questa cosa. Sì, poi devo dire che lo scenario è davvero molto complicato in Siria. Si dice, si sa dove magari si va a colpire, ma non si sa chi si va a colpire. Poi chi sono i nostri alleati? Insomma, uno deve farsi questa domanda. Paola Saluzzi, tu hai capito, dovessimo intervenire in Siria in qualche modo, chi sono i nostri amici? Perché poi in una guerra uno deve anche guardare questo, se vuol fare un intervento militare deve colpire qualcuno. Esatto, il problema è chi si va a colpire. Allora, si sa evidentemente che si va a colpire un regime criminale che è gestito in maniera criminale da un personaggio, come dire, criminale, ecco così, l'ho detto e non ci tiriamo più indietro. Il problema è chi si vada effettivamente a colpire e con chi, rifacendoci sempre alla Seconda Guerra Mondiale, insomma lì dobbiamo andare a voltarci indietro. Con chi si va ad alleare, chi decide di colpire. Concordo con Luca Dini, con il direttore, non c'è nessuna intenzione vera, reale, di voler iniziare una guerra. Ci sono morti da tanto, tanto, tanto tempo, rispetto ai quali non si è fatto niente, niente, niente, niente, e poi si scoprono le armi chimiche, per carità, che sono il vero confine. Il più pericoloso non lo metto in dubbio, ma non si è fatto niente. Non si è fatto niente per la Siria. Non si è fatto niente da prima, non si è fatto niente nei primi sei mesi, quando si sarebbe dovuto iniziare ad agire subito, immediatamente, con intelligenza, con tattica anche, per carità, senza fare una guerra, magari sostenendo quelli che in quel momento erano veramente contro Assad. Adesso è un supermercato, adesso sono aperte le porte, adesso entra chiunque. Ah sì, beh, adesso non è difficile. Chi tu vada a sostenere. Sì, però io dico, non si vuole fare veramente la guerra, a parte che, voglio dire, c'è ovviamente una grande componente di cosiddetti falchi, come vengono definiti qui, quindi in questo caso non sono i falchi e le colombe in Italia dove si scherza su cose del nulla, i falchi che in America spingono il presidente Obama a un intervento. E però chiedo a Luca Dini, com'è possibile spostare per esempio militarmente, mettere in moto tutta una macchina e poi non fare nulla? Cioè, la metto proprio da un punto di vista pratico, può permettersi una nazione come gli Stati Uniti di mobilitare anche economicamente tutto quello che vuol dire un'organizzazione di una guerra per poi non fare nulla? Io credo di no, ma il problema credo che è chiaro per tutti è che questa volta sappiamo chi sono i cattivi ma non sappiamo chi sono i buoni. Assolutamente, cioè, Il rischio è quello di andare ad armare, sostenere delle forze che poi si rivelino un boomerang, come già è successo. L'unica cosa che avrebbe senso, gli unici che vanno aiutati, che andrebbero aiutati, sono i civili. Cioè bisognerebbe, come dire, arrivare a disarmare le parti quasi, ma abbiamo visto in Kosovo quanto sia difficile questo, quindi... C'è un G20 di mezzo e può darsi che tutto ciò che è stato armato e tutto ciò che è stato preparato, come dire, messo intorno alla Siria possa anche essere semplicemente, lo dico tra virgolette, un avviso o preavviso. Può accadere, sì. Se non state buoni può accadere. Noi speriamo ancora questo, perché insomma nessuno sano di mente ha voglia di fare la guerra. Di contro ci sono 73 milioni di dollari di danni e 73 milioni di dollari di... che vogliono dire che l'unica azienda che funzioni nel mondo è quella bellica e quella della ricostruzione, cioè c'è gente che appunto, si sta leccando i baffi in questo momento. Appunto, era quello che io dicevo, ci sono degli interessi in ballo. In tutto questo, sai che Paola Saluzzi è molto arrabbiata ieri quando ci siamo sentiti nei confronti della First Lady siriana. Però attenzione, perché oggi c'è una disfida sui giornali. Qualche giornale internazionale, forse la guerra è anche questa, psicologica, ha detto che nel bunker dove sarebbe, come dire, a Damasco, rinchiusa, la moglie avrebbe fatto tanto shopping online per garantire soprattutto ai suoi figli cibo occidentale di primissima qualità. Ma ci sono giornali, Dio la benedica, ci sono giornali che smentiscono, cioè dicono è impossibile che sia lì attaccata a internet. Quindi c'è anche il giallo sulle scarpe Louboutin comprate da Asma Assad in questo momento, che devo dire, è un personaggio orrendo, punto. Davvero? Diciamo che ha un nome già che tutta una Asma, vabbè, è un nome tradotto così in italiano non fa effettivamente l'effetto, magari in arabo un nome normalissimo. Comunque, perché è un personaggio orrendo, Paola? Perché è un personaggio orrendo, perché lo è ben prima di andare sullo shopping online, perché un uomo è anche la donna che ha accanto, come dire, è un regime nazista come quello di Assad, evidentemente campa anche di questa signora che va in giro con i suoi abitini eleganti, che lo faccia o meno lo shopping online l'ha fatto e se ne lamentava in tempi non sospetti, si lamentava della situazione, sono quelle, ma non è che non citiamo Maria Antonietta, povera Crista, che forse era un po' così, un po' leggera, un po' staccata dai tempi, ma quantomeno viveva con la parrucca in testa e non aveva internet e campava in tempi sbagliati nella Versailles sbagliata per il suo collo e per la sua testa, ma questa qui lo sa che cosa sta succedendo. Certo, ed è un personaggio, francamente parlando, orrendo. Allora, mi fermo all'orrendo, ecco, avete capito. Il primo mercoledì non voglio dire, se no il secondo che dico. Dal secondo poi vedremo. 24 mattino. No, io non sono arrabbiata, sono molto felice. Spero che Befera morsichi i garretti e poi anche il culo a Berlusconi per non aver pagato la tassa delle scolasse. Caro Milan, bentornato. Quest'anno sono stato in qualche sagra paesana piemontese. I politici locali, mangiatori a tradimento e a sbaffo, quasi erano assenti. Cominciano a capire che l'aria sta tirando molto male anche per loro. Niente Alessandro, sono Antonio. Io da 2 anni che non percepisco lo stipendio, non riesco a prendere i soldi. Addirittura ci ha messo in cassa integrazione, non ci dà neanche quella. Ho cercato lavoro, ho cercato di tutto. Dicono che gli italiani non hanno voglia di lavorare, eppure non si riesce a trovare neanche un misero lavoro. Io voglio sapere come dobbiamo fare noi italiani a lavorare e ad avere un pochino di dignità. Io ho dato l'anima per la mia società e non è servito a niente. Tu o i tuoi ospiti, ditemi cosa devo fare. Ciao Milan, per cercare soldi si può legalizzare la prostituzione. C'è in corso la raccolta firme del referendum. Beh, oggi 2 settembre 2013 a Torino non ho potuto firmare. Un po' di spazio ce l'hai anche tu? Referendum, abrogazione, legge Merlin. Firmiamo tutti. Milano, io vorrei dire solamente questo. I 4 nuovi senatori a vita, che sono già ricchi di loro, potevano anche rinunciare al loro stipendio, perché 15.000 euro netti al mese, per 4 sono 60.000 euro. Per 12 mesi sono 720.000 euro. Quanti rotoli di carta igienica potevano essere comprati per gli asili, per le scuole elementari, dove la mia nipotina purtroppo si deve portare la carta igienica da casa? Non lo so a rispondere a questa domanda. Come non so, cara Paola Saluzzi, caro Luca Dini, che dire ad Antonio, questo signore? Queste sono forse le domande alle quali la politica dovrebbe rispondere. Antonio, che ci ha detto: io sono 2 anni che non cerco e non trovo lavoro. Voglio credere, insomma, che sia vero quello che ci ha lasciato in segreteria. Allora, oggi, per esempio, il premier Enrico Letta viene intervistato, è un'intervista esclusiva, qualche dichiarazione al Sole 24 Ore, dice: lavorerò per il lavoro concretamente. Ma queste sono le risposte che la politica deve dare. Cosa dobbiamo dire ad Antonio? Luca Dini, che ci chiede cosa devo fare, io mi sento anche disarmato. Cosa devo rispondere a uno che dice da 2 anni le provo tutte e non trovo uno straccio di misero lavoro per avere la dignità? Non c'è niente da rispondere, bisognerebbe appunto rispondergli, cioè dargli delle risposte diverse. Forse i giornali si dovrebbero occupare di questo. Ho visto quest'estate, insomma, ci sono stati dei dibattiti sull'imprenditore che diceva: sto cercando degli operai che facciano questo e quest'altro, non li trovo italiani. Sì. Per esempio, io vorrei capire se questa cosa è vera oppure se oppure se è una buttata, insomma. Ci sono veramente italiani che di fronte a lavori cosiddetti umidi, che poi lavori umidi non esistono, girano le spalle, preferiscono non fare niente. Io ho i miei dubbi, ecco. Questo sì, Paola, questa, cioè, non lo so, sono quegli appelli accorati che noi mandiamo in onda, io li mando in onda alla segreteria telefonica, sai, per noi è un grande pupurri, c'è tutto, però rimango veramente, come dire, a braccia alzate quando poi arrivano queste domande. Noi la politica non solo si rimane a braccia alzate, ma la politica deve capire che questi saranno i prossimi dentro diciamo i prossimi che andranno a votare, sì. Sono questi se andranno a votare. Io credo che sono i prossimi che non andranno a votare, andando a ingrossare sì, le ma file continuando delle a votare con questa votare. Legge continuando a votare con questa legge, certo, se andiamo a votare noi tre e con Peter Bescapè e Miriam, sì. Se andiamo a votare noi cinque. E facciamo il governo di un paese, decidiamo certo. dove il paese deve andare. Governo delle larghe intese, ovviamente. Perché voglio dire, questa anche è la cosa sbagliata, no? Perché se c'è una nuova legge e la gente non va a votare, allora forse ci si rende conto questo che certamente. Il problema esiste. Allora, io ho qui il numero di Vanity Fair, farò felice Paola Saluzzi. Oh. Eccolo lì, James Franco, no? Visto che parlavi del mio. Bella forse idea. parlavi di, vabbè, chiaramente Venezia, però l'articolo che io leggerò sicuramente è l'intervista alle figlie del ministro Kyenge. Il ministro Kyenge, le figlie Giulia e Maisha. Com'è il titolo, Luca? Che ridere, Calderoli. Anche tu, farabutto, sei andato a sfruculiare. Che dicono in questa intervista queste due ragazze? Dicono veramente che, cioè, loro sostengono che quando la madre ha sentito le parole di Calderoli si è fatta una bella risata. E dicono anche che quella del gorilla, l'altra cosa divertente che dicono è che quando le hanno detto che quando le hanno lanciato le banane, sì, le hanno detto: mamma, le dovevi mangiare le banane. Insomma, loro sostengono che continuano a sostenere che c'è una minoranza chiassosa che fa queste cose e che, essendo nate e cresciute in Italia, continuano a sostenere che l'Italia sia un paese non razzista e che queste cose sono solo strumentalizzazioni politiche. Io spero che sia vero. Giulia e Maisha, 18-20 anni, italianissime, nate e cresciute in Italia, tra l'altro italiane come italiana anche il ministro Kyenge, ma insomma, questa vicenda del ministro, Paola, è una chiosa? Sì. Ma tempo fa ho letto. Calmati. Sul Fatto Quotidiano, sì. Una battuta bellissima. Dici. Erano quattro righe. Sono state tirate banane al ministro Kyenge. Sì, si era avvicinata troppo alla gabbia. Comunque, vi lascio con questa battuta. Sapete cosa ha detto Enrico Letta di se stesso e del governo? Ha detto: il mio governo è come la macchina di Santa Rosa, la processione di Viterbo. Barcolla, faticano tutti, ma non cade mai. Evviva la democrazia cristiana! Grazie a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate in edicola, e Paola Saluzzi, Sky TG24, pomeriggio. Grazie, grazie alla prossima. Grazie. Alla prossima, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:19 minuti, siamo ancora qui, cari ascoltatori. Se siete arrivati ora, ben arrivati, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi ci occuperemo di politica, mentre tutti si occupano del Popolo della Libertà. Che succede? E oggi i giornali virano sul Berlusconi falco, addirittura con la possibilità di far cadere il governo entro venerdì, quindi entro due giorni. E se il PD si interroga, renziani, non renziani, lo spompo, il bandana, con chi state? Noi vogliamo parlare di un partito che è un po' in sordina in questo momento, anzi non è un partito, un movimento, il Movimento 5 Stelle, che sta vivendo un momento così. Molti hanno creduto nel Movimento 5 Stelle, molti ci credono ancora. Vi invitiamo già a chiamare 800 24 00 24 dalle 8 per capire che farà il Movimento 5 Stelle, visto che Beppe Grillo teme

o con il bandana, così ormai è soprannominato Matteo Renzi dopo che il settimanale Chi l'ha immortalato con una bandana, accostandolo ovviamente subito a Silvio Berlusconi. Ecco, quindi il PD si arrabatta su questo. Ma noi oggi vogliamo partire da un altro partito, meglio movimento, se no poi si arrabbiano. Già il mio interlocutore si arrabbierà se lo definisco partito. Vale a dire Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che almeno a leggere i giornali, anche qui viene dato con parole come divisioni, dissidenti. Beppe Grillo che annuncia ci sarà presto un terzo Vaffa Day e dice guai a chi si guarda l'ombelico. Il tema del Movimento 5 Stelle è che voglio chiedere anche agli ascoltatori col numero di telefono 800 24 00 24, che ne pensate di quello straordinario sicuramente numero di consensi che il Movimento 5 Stelle ha raccolto solo qualche mese fa, anche con tante aspettative, chiedere e capire se sono aspettative che secondo voi ascoltatori sono state in parte deluse o vengono mantenute. Con noi ci sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Nuti, che saluto, buongiorno e ben ritrovato Nuti, eccoci qua. Buongiorno a voi. Come saluto il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, ben trovato direttore. Buongiorno a voi. Allora Nuti, uno dei temi oggi, per esempio, ci sono varie interviste sui giornali, vi dipingono divisi così, dissidenti, dubbiosi, propensi a fare delle alleanze, quelli che dicono che le alleanze sono tabù. Per esempio, partiamo da questa cosa: le alleanze secondo lei sono tabù per un movimento come il Movimento 5 Stelle? Ma se si intendono alleanze classiche, cioè quelle fra i partiti per poi non fare nulla o far finta di essere d'accordo su tutto, in realtà non è così, certo che siamo contro questo tipo di alleanze. Se invece diciamo che su dei singoli punti del programma votiamo a favore insieme ad altri partiti che sono la pensano come noi su quel punto, allora ok, noi abbiamo sempre detto, è scritto il codice di comportamento. Noi non siamo per le alleanze con questi partiti responsabili di questo sfascio. Mm. Se invece anche questi partiti o altri propongono dei punti di programma sui quali noi siamo d'accordo e quindi sono anche nelle modalità in cui devono essere svolti, sono corretti, noi votiamo a favore. Cioè, non è un pregiudizio. Questo certo. Però ha fatto per esempio discutere ciò che soprattutto il senatore Orellana ha detto, cioè questo, le alleanze non sono un tabù. Che vuol dire? Che dire questo vuol dire essere fuori dal Movimento 5 Stelle? Ma guarda, io penso una cosa molto molto semplice. Noi ci siamo candidati sapendo benissimo cos'è il Movimento 5 Stelle e avendo accettato e firmato un codice di comportamento che dice che il Movimento 5 Stelle non fa alleanza, c'è scritto anche nel nostro, diciamo, nostro statuto. Di conseguenza, se c'è qualcuno che pensa che invece abbiamo sbagliato o pensa che bisogna fare un'alleanza con il PD o altri partiti, ma lo faccia pure, non con il Movimento 5 Stelle, cioè non è che non lo può fare, ma non con il Movimento 5 Stelle, è una questione di coerenza e correttezza. Certo, esce dal movimento e faccia quello che vuole. Scusi, io penso che questi due elementi, correttezza e coerenza, dovrebbero essere, diciamo, di tutti i politici, perché dire una cosa, candidarsi dicendo delle cose in campagna elettorale e poi farne altre, penso che è proprio quello che i cittadini non sopportano più. Quindi voglio dire, libero chiunque di fare alleanze, ma esca dal movimento e faccia le alleanze con chi vuole. Questo, diciamo, visto che così sennò snaturerebbe o tradirebbe quello che c'è scritto nel mandato del movimento. Però le chiedo, non crede che questa posizione, che è la posizione di cui vi accusano di essere intransigenti in maniera totale, certo coerenti con quello che avete stabilito, però sa, la politica è anche un po' l'arte del cercare di capire qual è la situazione. Non rischiate di apparire come quelli intransigenti che molti vi guardano e dicono ma insomma noi speravamo in voi, nella possibilità di fare qualcosa, poi uno si trova lì e invece siete molto molto rigidi su alcune posizioni che vi impediscono magari di andare al governo, per esempio. Guardi, noi di andare al governo con la gente responsabile di questo sfascio per sparire dopo 4-5 mesi da un'alleanza con un PD o con un PDL e così via, non ne abbiamo minimamente intenzione. Noi siamo andati lì con un messaggio che era tutti a casa. Ora, tutti a casa non è semplicemente un messaggio, come dire, populistico o qualunquistico, è frutto della conoscenza di scandali e di cosa, chi ha creato questi risultati pessimi in più di 20 anni di mala gestione del paese. Quindi perché allearsi con qualcuno di questi pur di andare al governo? Sembra allora la classica cosa, stile Lega, tutti a casa, lo Roma la drona, però poi ci si allea col PDL, si rubano dei soldi come è capitato nei vari scandali che hanno coinvolto anche la Lega, e quindi poi alla fine in questo si è tutti uguali. No, noi invece ci distinguiamo veramente, cioè, però non così non andrete, non andrete mai al governo. Una propaganda a parole, cioè deve essere anche nei fatti. Sì, cioè, certo. Io non posso dire tutti a casa perché loro sono i responsabili, hanno fatto questo e poi andare insieme a loro. Questo andare al governo con loro non risolve il problema del paese. Questo d'accordo, però Nuti, lei si rende conto così che non andrete mai al governo a meno che non prendiate il 50% dei voti più uno. Io questa cosa la devo correggere, perché in realtà non è così. Io ho fatto studi di statistica nella mia formazione e devo dire che basterebbe guardare i risultati e noi con una piccola percentuale in più avremmo preso le ultime elezioni il premio di maggioranza alla Camera, e con un 55% dei seggi alla Camera tutti i partiti, anche alleandosi tutti insieme, avrebbero comunque dovuto fare i conti con noi. Sì, diciamo, con la maggioranza. In questo momento è ovvio che si sono equalizzati, e quindi il 75% del Parlamento è contro di noi e noi siamo il 25%, e si possono permettere di metterci all'angolo. Al contrario. Mentre invece con un 55% dei seggi capisce bene che i numeri sarebbero stati, e questo non con un 51%, sarebbe bastato un 3-4% in più. Dovete prendere la maggioranza alla Camera e al Senato, questo per governo, e puntate a questo, cioè l'unico modo per andare al governo sarebbe questo per il Movimento 5 Stelle. Assolutamente sì, certo. E non è una cosa impossibile. Io quello che dico sempre, è che lo dico da qualche settimana a questa parte, cioè sembra come se l'Italia è destinata ad avere sempre il PD e il PDL in eterno in politica, sempre i Brunetta, sempre gli Schifani, Santanchè, Gasparri e così via. Ma non è così. Cioè, in un paese civile, questo tipo di personaggi politici che ti raccontano delle cose da 20 anni, 30 anni e non le fanno, sarebbero andati a casa da tantissimo tempo. Cioè, il caso Berlusconi è vergognoso che sia ancora in Italia una cosa del genere, ma semplicemente vuole il fatto che noi crediamo nelle favole che ci hanno raccontato questi politici, crediamo nel fatto che se non ci si allea non si può fare nulla in questo paese. Ma ci arriviamo a Berlusconi. Mi faccia coinvolgere anche il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Tra l'altro, di Berlusconi poi parleremo, perché oggi il Fatto, per esempio, intervista il presidente della giunta del Senato che dovrà decidere sulla decadenza di Berlusconi, Stefano. E a me, Padellaro, scusi, partiamo da qui. Anzi, quando ho letto la domanda di Silvia Truzzi, dice: cosa succederà il 9 settembre? Gli scenari che possono uscire dal 9 settembre, dice Stefano, sono infiniti. Ma come infiniti? Ci avete raccontato per tutta l'estate con paginate che il 9 settembre succedeva, no? Sapevamo tutto, e adesso invece si va avanti, non si saprà neanche niente, forse, Padellaro. Ma io penso che con una battuta si potrebbe dire che il 9 settembre sarà quello del 2014, perché è evidente che qui ci troviamo di fronte a un tentativo palese. Abbiamo visto anche Schifani che ha chiesto la recusazione della giunta, di prendere tempo, a meglio di perdere tempo, di far scivolare le decisioni di mesi. Noi abbiamo scritto ieri che prima la decadenza di Previti fu decisa in 14 mesi, ecco. Per quella di Berlusconi, che è un po' più importante di Previti, penso che, ecco, più 18, o meno saremo là. 18-19 magari viene concedere Berlusconi, poi essendo effettivamente più importante di Previti. Senta, la questione del Movimento 5 Stelle, secondo, visto che voi siete anche molto attenti a quello che succede all'interno del Movimento, fa bene Nuti a dire chi vuole alleanze, e visto che ha firmato un documento, esca dal Movimento e faccia, non ha detto esca, ma insomma, le alleanze si fanno fuori dal Movimento. Non stando qui, oppure è una linea intransigente che in politica non paga? Beh, è la linea sulla quale il Movimento 5 Stelle si è presentato. presentato alle elezioni. Bisogna dire questo, che tutti gli appunti che si possono muovere al Movimento 5 Stelle, l'unica cosa che non si può dire è che tutte queste cose non fossero state chiare fin dal primo momento. Lei prima citava Mao, no? Grande la confusione, poi Mao concludeva situazione eccellente. Certo, perciò la situazione, ecco, favorevole, diceva. Certo, allora io ho l'impressione che Grillo stia lavorando non sull'immediato, ma sul presente, sul futuro prossimo. E perché? Perché la sua analisi, giusto o sbagliata che sia, è che questo sistema dei partiti tradizionali alla fine si finirà in una sorta di decomposizione e che il Movimento 5 Stelle avrà la possibilità, come diceva prima Nuti, con il Porcellum o senza il Porcellum, di prendere la maggioranza e quindi il governo del Paese. Ecco, io penso che questa analisi, che è legittima e che quindi Grillo chiede che i deputati che sono stati eletti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle si attengano, abbia un difetto. Qual è il difetto? Il difetto è che chi ha votato il Movimento 5 Stelle, lei giustamente prima diceva, con una exploit imprevisto, perché hanno preso veramente una quantità enorme di voti, aveva due atteggiamenti diversi. C'erano quelli che sono d'accordo con Grillo e ci sono quelli che invece hanno votato il Movimento 5 Stelle perché volevano che questo movimento cambiasse subito le cose nella politica italiana. E infatti cosa vediamo dai sondaggi, per quanto possano contare, che secondo i sondaggi oggi il Movimento 5 Stelle è calcolato sul 15%, quindi c'è stata una scrematura di voti. Io ho l'impressione che i voti che se ne sono andati via, sì, sono i voti di quelli che pensavano che il Movimento 5 Stelle potesse fare subito politica, cioè fare alleanze, partecipare all'elezione del nuovo capo dello Stato. Ricordiamo la vicenda di Prodi, no? Sì, sì. Prodi con i voti del Movimento 5 Stelle probabilmente sarebbe stato eletto, però Grillo decise altrimenti. Quindi il difetto dell'analisi di Grillo è che perdendo quei voti che pensavano appunto il movimento farà politica, ecco, di poter vincere le elezioni la prossima volta, nonostante questi. Ma infatti, dopo la pubblicità, ripartiamo da qui con Antonio Padellaro e con Riccardo Nuti, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Cioè, l'idea, come ha detto Padellaro, caro Nuti, è che ci siano anche molti che abbiano votato il Movimento 5 Stelle e che sono rimasti delusi, come dire, da una sorta di rivoluzione mancata. Adesso vorrò capire tra un attimo la pubblicità, se questo è da imputare anche al fatto che, come dice lei, siamo stati messi all'angolo, tutti i nostri provvedimenti, voi spesso lo dite, noi ci attiviamo, studiamo, proponiamo leggi, ma queste cose vengono, come dire, messe da parte, accantonate, non vengono raccontate dai giornali. Ecco, o se invece c'è effettivamente anche da fare un mea culpa per non essere riusciti a mettere a frutto tutto questo consenso elettorale che avete ottenuto. 24 mattino. Eccoci alle 8:36 minuti, siamo con il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, con Riccardo Nuti, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Stiamo cercando di capire se davvero, come diceva Mao, c'è tanta confusione sotto il cielo e quindi la situazione è favorevole oppure no per la politica in Italia. Anche ascoltatori, Giovanni della provincia di Monza e Brianza. Ah, resistete intanto a Monza, con la provincia. Bravi, bravi. Dica Giovanni. Speriamo che la provincia sparisca. Comunque, complimenti per la trasmissione, ascoltati come sempre. Dica. Ma io mi meraviglio che lei, Milan, ancora vada a domandare a Padellaro cosa ne pensa di quello che ha detto Riccardo. Allora, il Movimento 5 Stelle, che io sto seguendo da un po' di mesi, se non anni, mi ha convinto di essere votato alle scorse elezioni, dopo che io per 20 anni ho votato tutt'altra cosa, i partiti tradizionali, perché era l'unico che dimostrava di attuare, una volta raggiunto l'obiettivo come la regione Sicilia o Parma, sì, quello che aveva promesso, senza compromessi e senza corruzione di pensiero. Ora, eticamente spaventa a tutti, giornalisti compresi e attenti, sì, alla politica, che un partito, cioè un movimento, si presenti e mantenga. Ma vabbè, non è che spaventa. No, ma guardi, Giovanni, non è che spaventa. Non mi spaventa eticamente. No, la questione che chiedo è che. Padellaro dice che il movimento perderà 15%, il 10% di voti. Beh, ma voglio dire, ma è un'ipotesi, è uno scenario possibile. Forse guardi che lo sa anche lo stesso Grillo. Quando ieri Grillo ha scritto, è come una partita a scacchi, i bianchi non si uniscono ai neri, cioè o vinciamo o perdiamo irrimediabilmente. Così ha detto Beppe Grillo, l'ha scritto nel suo post. Quindi Giovanni, vede che anche Beppe Grillo, insomma, la pensa così. Sa che è una partita, come dire, a vincere o perdere, nessun compromesso. Questo è il punto di Beppe Grillo. Ha finito, Giovanni. L'unico che è coerente in tutto quello che ha promesso e che sta mantenendo, sì, anche con scarso risultato, sì, perché certo il PDL e il PD, sì, non hanno mantenuto le promesse elettorali per l'ennesima volta e sono abbarbicati al far niente, all'immobilismo, sì, sì, è il buon Grillo. Va bene, ma questa è la sua opinione, l'opinione di molti, lei è anche un elettore del Movimento 5 Stelle, però Riccardo Nuti si può anche, traduco se mi permetto quello che ha detto Padellaro, si può anche rischiare di morire, tra virgolette, politicamente in nome della estrema coerenza? Nuti. Grazie per la parola. Allora, io vorrei precisare due cose, ora con l'intervento del portatore anche tre. La prima è che i sondaggi, dice il dottor Padellaro, ci danno 15%. Proprio gli stessi sondaggi prima delle elezioni di febbraio ci davano 14-15% e poi in realtà era un 25%, quindi, come dire, se l'andamento è quello, si vede che siamo sullo stesso 25% delle elezioni, poi in realtà magari non essendo proprio corretti spesso i sondaggi potremmo anche essere oltre. Seconda precisazione, non è stato Grillo che ha deciso no, non votiamo Prodi come Presidente della Repubblica, ma noi abbiamo seguito quello che era il risultato fatto con le Quirinari in rete e il primo che aveva accettato era Rodotà e quindi noi abbiamo puntato su Rodotà, creando notevoli problemi sia al PD che al PDL, costringendoli, sì, per la prima volta nella storia della Repubblica a votare lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano. Il terzo elemento è che secondo me in realtà i giornalisti non è che hanno paura, sono preoccupati, come diceva poc'anzi ascoltatore, molto più semplicemente, volendo essere, diciamo, buoni, secondo me è semplicemente anche una questione di abitudine, cioè non solo i giornalisti, ma un po' tutti in Italia non siamo abituati ad avere un movimento politico che è coerente con quanto detto in campagna elettorale e che appunto non vuole avere una sorta di corruzione morale da questo punto di vista. Insomma, siamo così, siamo un po' noi giornalisti, hai capito? Padellaro, siamo abituati allo sconquasso. No, però prima di Padellaro, però risponda alla domanda, c'è il rischio, ripeto, il post di Grillo, io l'ho letto così, quando dice, ecco, il Movimento 5 Stelle è condannato dalla sua stessa natura a vincere la partita, certo, o a perderla irrimediabilmente, quindi lo dice anche lo stesso Grillo, cioè è un crinale rischioso, ecco, questo, politicamente. Lei dice per coerenza, ma si, certo, potrebbe anche, certo, morire, per estrema coerenza, morire nel, certo, senso essere ridimensionati politicamente. Ma il Movimento, sì, sì, io confermo questo, nel senso il Movimento 5 Stelle è un movimento che punta al tutto, non al meno peggio, a qualcosa, a tenere qualche briciola per dire abbiamo fatto questo e basta. Cioè noi abbiamo una visione che va un po' più oltre a quella che è la piccola vittoria del momento, sì, siccome vogliamo cambiare veramente, fare una rivoluzione ovviamente pacifica, ma una rivoluzione culturale e su tantissimi aspetti di questo paese, di questa politica, è ovvio che o vinciamo o siamo costretti a vincere o a sparire, perché l'elettore nostro, chi ha votato il Movimento 5 Stelle, lo ha votato con quella chiarezza che diceva il dottor Padellaro, cioè sapendo benissimo che noi non ci saremmo alleati con nessuno e così via, quindi è inutile sapendolo dire ah, ma voi non avete fatto l'alleanza, ma se abbiamo detto che era chiaro è inutile dirci ah, non era chiaro, era chiaro, punto e basta, però con un obiettivo che era quello del cambio totale di questo paese da questo punto di vista. economico, politico, sì. Eccetera, sì, eccetera. E tra poco vedremo, vedremo magari anche qualche provvedimento, perché vi accusano appunto di non essere riusciti a impostare questa rivoluzione. Però prima mi faccio sentire Padellaro su questo, sia cosa ne pensa l'ascoltatore Padellaro, e sia insomma effettivamente dice Nuti e dice, scrive Grillo, o prendiamo tutto o scompariamo. Va bene, questa è la posta in gioco, ma niente inciuci ai quali siamo abituati noi giornalisti, ha sentito Padellaro. Ma mi sembra che quello che dice Grillo sia la sostanza della questione, quindi è inutile diciamo insistere. Grillo lo dice, lo ha detto fin dal primo momento. Io capisco anche che non ha nessun interesse Grillo e chi ha lavorato in questi anni per il Movimento 5 Stelle a vivacchiare, no? A cercare degli strapuntini in alleanze tra l'altro abbastanza deboli, come stiamo vedendo, perfino queste larghe intese stanno dimostrando fragilissime, quindi questo è evidente. Il discorso è un altro, il discorso riguarda le prospettive future. Vedremo. Io adesso però vorrei dire una cosa, cioè che è giusto che chi fonda un movimento e chi fa politica punti al governo del paese, ma si può anche fare opposizione. E io penso per esempio che molti elettori del Movimento 5 Stelle, delusi o no, abbiano votato Movimento 5 Stelle perché facesse una opposizione reale in Parlamento e nella politica romana, chiamiamola così. Io credo che da questo punto di vista si possa dire poco, si possa criticare poco il Movimento 5 Stelle, se non di non avere ancora fatto quell'operazione, vi ricordate la priscatole, no? Quando, certo. Apriamo con la scatola di tonno. Ecco, io se mi è permesso una richiesta, un appunto, non so, è che forse quell'attività è stata fatta relativamente. Bisogna che tutto ciò che avviene nelle segrete stanze del Parlamento e che molti cittadini non conoscono perché in tutti questi anni si è preferito tenere certe cose un po' abbastanza misteriose. Io penso che il Movimento 5 Stelle dovrebbe portare alla luce con più decisione. Invece vedo che c'è molto dibattito interno, abbiamo visto anche le riunioni di ieri dei gruppi del Senato, del gruppo della Camera, ieri del gruppo della Camera, l'altro ieri del gruppo del Senato. C'è molta autocoscienza, ci sono molte discussioni sul cosa dobbiamo fare, forse manca quell'operazione apriscatole che era stata promessa, e che un partito di opposizione, come dire, dura e pura come Movimento 5 Stelle, dovrebbe portare avanti con più decisione. E allora su questo, tra un minuto dopo le informazioni sul traffico, risponde Riccardo Nuti, che è un po' anche quello che dicevo anch'io, insomma, che ne è di tutto quello che è stato, qual è stata l'attività fatta finora dal Movimento 5 Stelle a dire promettiamo, faremo questo, questo, questo e questo. Si è visto poco sui giornali o avete fatto poco? Eccoci qua, allora, onorevole Nuti, Movimento 5 Stelle, questo è il punto. Che cosa avete fatto di questa operazione apriscatole? Non mi dica adesso che i giornali hanno intenzione ad affossare, non far sapere quello che il Movimento 5 Stelle fa tutti i giorni a Camera e Senato. Come vede, io non sono una persona che tende a dire, a essere, diciamo, complottista verso i giornali. Quando c'è da dire cose positive si dicono cose positive, quando c'è da dire cose negative si dicono. Non c'è niente da essere complottisti sotto questo aspetto. Guardi, io concordo abbastanza con quello che diceva il dottor Padellaro, cioè la nostra azione da apriscatole è finora stata effettuata parzialmente, cioè sicuramente è da intensificare, l'abbiamo iniziata, però ovviamente in questi mesi, ci sono stati nei primi sei mesi, ovviamente, come dire, magari nei primi tre, una fase di rodaggio era più che comprensibile. Ma solo per ricordare alcune delle cose che abbiamo tirato fuori, alcune le abbiamo anche ottenute sotto questo punto di vista. Noi abbiamo ottenuto l'impignorabilità della prima casa, abbiamo bloccato l'utilizzo dei semi OGM, abbiamo ottenuto una mozione sul contrasto del dissesto idrogeologico. E poi vorrei ricordare, fra le varie cose, quello che il caso Shalabayeva è nato dal nostro intervento al Senato, o abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo denunciato tutti quelli che sono i costi del personale della Camera, sì. Si ricorda con l'onorevole Fraccaro, il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Non è un po' ancora... pochino, Nuti, cioè, ottenere una mozione su una cosa, gli OGM, cioè, rispetto alla rivoluzione che vorreste fare, capisco, non è che c'è in sei mesi, però forse è questo. Lei capisce se qualcuno dice ho votato Movimento 5 Stelle ma adesso sono deluso perché mi aspettavo molto di più, lo capirebbe un discorso del genere oppure no? Non è una questione di non capirlo, è una questione che bisogna comprendere cosa è il Parlamento e cosa è il Governo, sono due ruoli distinti, noi sicuramente, ripeto, con tantissima umiltà dobbiamo cercare di migliorare costantemente, ma questa attività di rompere le scatole e fare l'apriscatole la stiamo iniziando. Certo, sicuramente verranno fuori tantissimi altri scandali, ora per esempio stiamo puntando a quello che è il bilancio della Camera, che cercheranno di approvare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e anche lì faremo un'operazione, diciamo, open bilancio. Ma ci sono tante cose che necessitano di un bel po' di studio per poterle dire con una certa determinazione. Ma ci stiamo applicando. Perché altrimenti il rischio qual è? Di sparare una cosa senza avere i dati in mano, senza aver studiato. Sentiamo... Ci vuole anche un po' di serietà. Sì, questo c'è. Allora, serve un po' di tempo per studiare. Anche un'altra cosa che abbiamo tirato fuori, per esempio, quando c'era il decreto delle carceri, c'era il tentativo che abbiamo svelato noi, che è uscito anche tramite il Fatto Quotidiano, per esempio, del tentativo di vendita di alcune delle carceri. Alcune cose, certo, dice queste cose le abbiamo fatte, ecco, rispetto a quella promessa rivoluzione è chiaro che molte persone dicono beh, ma forse si poteva ambire a qualcosa di più. Comunque Antonio dalla provincia di Salerno ci ha chiamato. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto bentornato Milano, grazie. La sua mancanza. Senta, vorrei dire al deputato di 5 Stelle, collegandomi a quello che lei ha detto prima, io sono uno di quelli che ha votato 5 Stelle ma non lo voterò più, e come me ce ne sono tanti. Perché? Poi, perché? Il deputato 5 Stelle, con quello che ha detto, ha asserito chiaramente che non cambierà mai la legge elettorale, perché in modo arrogante pretende di pigliare il 55%. Ma il 55% spera con la legge elettorale. Sì, certo, attuale. Con l'attuale legge elettorale. Quindi non la vorrà mai cambiare. Ma questo è un punto, e glielo chiederò a Nuti tra poco. Mi dica perché lei non lo ha votato e non lo voterà più. Non lo voto perché sono deluso, in quanto sono immobili, seguo molto le trasmissioni al Parlamento e al Senato. Ma cosa... I loro interventi sono soltanto chiacchiere, danno solo fastidio, non costruiscono niente di positivo. Tendono solo ad allungare i tempi, a dare fastidio, a offendere in modo molto plateale tutti e tutto. Insomma, è rimasto deluso. È rimasto un momento di rottura che non si può votare. Vabbè, lei è uno dei delusi. Nuti, risponda ad Antonio, e soprattutto effettivamente la legge elettorale, che è un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle, Grillo ha detto rimanga questa legge, ma come rimanga questa legge? Il porcellum contro il quale vi siete scagliati. Volete che rimanga perché così potete ottenere il 55% di premio di maggioranza, oppure la volete cambiare? Allora, guardi, ieri proprio nella riunione che abbiamo fatto fra Camera e Senato abbiamo parlato anche di legge elettorale, abbiamo illustrato una nostra proposta della Commissione Affari Costituzionali a tutta l'Assemblea Camera e Senato. Il concetto è un po' diverso da quello che esprimeva il cittadino, se posso permettermi, cioè noi non è che abbiamo detto se ci piace il porcellum, attenzione, noi lo vogliamo abolire il porcellum e lo vogliamo cambiare, però lo vogliamo cambiare migliorandolo. Il problema è che invece noi stiamo denunciando è che i partiti in questo momento vogliono fare il super porcellum, cioè lo vogliono peggiorare. Quindi la domanda che noi vogliamo rivolgere ai cittadini è: voi volete peggiorare il porcellum o lo vogliamo totalmente eliminare e fare una legge migliore? Noi siamo per la seconda opzione. Se ci dicono che bisogna cambiare il porcellum e fare il super porcellum, è chiaro che noi diciamo no, noi il super porcellum non ci siamo. Cioè, allora piuttosto teniamoci questo. Il buon senso vorrebbe questo. Cioè, dice, piuttosto che peggiorarlo, teniamoci quello che c'è. Allora, se questo è il livello politico che vogliono tenere questi partiti, è chiaro che noi non possiamo dire sì al super porcellum. Ma l'ascoltatore vorrebbe un sì al super porcellum? No, noi vogliamo fare un'altra legge totalmente diversa, e già infatti ne abbiamo iniziato a discutere, e questa proposta di legge la metteremo sul nostro sito per farla discutere ai cittadini. Quindi insomma una proposta di cittadini in modo da poterlo eventualmente anche migliorare la nostra proposta. Una proposta di legge elettorale c'è. Padellaro, per concludere, direttore del Fatto Quotidiano, possiamo davvero dire che siccome la confusione è tanta la situazione è favorevole oppure no? Non le ho chiesto niente di Berlusconi o del PD, insomma degli altri partiti, vabbè di Berlusconi posso immaginare, un po' abbiamo già detto, del PD, il PD che dibatte tra lo spompo e il bandana, lei ha già preso posizione per esempio su... No, per carità, no, il PD è un mistero gaudioso, quindi magari, non so cosa succederà. Magari no, deciso. Io penso questo, che noi dobbiamo in qualche modo riconoscere il Movimento 5 Stelle di aver fatto, di aver rappresentato un voto di protesta anche molto, molto forte, che altrimenti se non fosse stato rappresentato in Parlamento insomma sarebbe più un po' più pericoloso, diciamo così. Attenzione, la situazione del Paese è quella che è, la crisi è sempre presente, anzi si aggrava sotto certi aspetti, ci sono delle categorie che stanno veramente soffrendo. Ecco, penso che il Movimento 5 Stelle questa funzione di aver portato questa protesta nelle istituzioni l'abbia assolta bene, e guai se la critica al Movimento dimenticasse questo fatto, no? Punto primo. Punto secondo, molto rapidamente, il Movimento io credo che sarebbe un errore adesso puntare subito a elezioni anticipate, come credo potrebbe succedere, l'ha detto a chiare lettere, perché si rischia di rientrare di trasformare anche il Movimento di Grillo in un movimento, diciamo, da campagna elettorale. Invece io credo che l'attività in Parlamento serva al Movimento di Grillo, serva al Movimento 5 Stelle, intanto per fare pratica di un'istituzione delicata, e secondo per affermare col passare del tempo quei principi di cui parlava Nuti, anche per realizzare quelle cose che sono nel Movimento 5 Stelle. Quindi io, se mi permetto di fare un'osservazione, è attenzione, andare a elezioni anticipate, ammesso che ci si arrivi, non è la strada migliore. Invece restare a lavorare in Parlamento. Vorrebbe dire che se cadesse il governo bisognerebbe trovare quei famosi, tra virgolette, stampelle per un eventuale, che ne so, Letta bis. Ma insomma, questo sarà forse un'altra puntata. Ringrazio Riccardo Nuti, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Ci troviamo domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. QOA Lean Society Forum, 19-20 novembre. Info leancenter.it. Vi ha presentato "24 Mattino".